Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati in questa nuova puntata dal mondo della scuola. Oggi ci spostiamo idealmente nel Veneto orientale, nella zona tra San Donà di Piave e Porto Gruaro. Anzi, due ospiti sono venuti nei nostri studi per raccontare che cosa fanno, che cosa propongono anche alle scuole con le loro attività e le loro iniziative. Sono il presidente e il direttore del centro di documentazione Aldo Mori, Maria Trivellato e Pierangelo Piave. Asentier, benvenuti a entrambi. Grazie. Sì. Partiamo da un po' di storia. Centro di documentazione Aldo Mori, quando nasce e quali sono le sue finalità? Pierangelo. Allora, il centro nasce nel 2007, quindi ha fatto 7 anni proprio in questi giorni, e ha la finalità di raccogliere le ricerche del territorio sulla storia contemporanea e in particolare poi di mettere in contatto i ricercatori locali con il mondo della scuola, in maniera che le ricerche degli studiosi non restino estranee al lavoro degli insegnanti. Molto spesso gli insegnanti stessi sono degli ottimi ricercatori, fanno delle grandi ricerche. La nostra grande finalità è stata proprio questa, quindi mettere in contatto la ricerca con la scuola e valorizzare la ricerca che fa la scuola. Storia contemporanea, io ho dei ricordi che si collocava in un periodo che poi ovviamente passando i decenni si allarga. A quali anni facciamo riferimento? Cioè da quando? Diciamo dopo l'Unità d'Italia. Quindi storia contemporanea, l'Unità d'Italia, subito dopo le due guerre, la Resistenza e fino ai giorni nostri. Quindi proprio contemporanea fino a ieri, poi di guerra ovviamente avremo modo di parlare e quella zona insomma di guerra ne ha saputo molto negli anni passati. Maria, quanti siete in questo centro, a parte voi due? Sì, cioè abbiamo dei soci sandonatesi e dei soci portogruaresi che sono stati fondatori. La nostra collaborazione però va oltre al numero dei soci, perché nel momento del lavoro e della produzione noi coinvolgiamo in riunioni periodiche proprio gli insegnanti e le associazioni culturali del territorio. Per cui si può dire che il centro si allarga con persone iscritte e persone non iscritte. La partecipazione è anche molto motivata, perché dietro appunto di queste persone, dietro a queste persone ci sono tutti i vari alunni. E poi nelle associazioni culturali del territorio anche loro hanno altre persone che collaborano. E nella nostra attività quindi non l'andiamo a quantificare semplicemente, insomma, come numero ristretto di è come soci. Il sasso nello stagno, no? Esattamente. Sì, i soci formali sono una trentina, di cui 5 sono amministrazioni comunali. Ecco, e poi ci vale sono anche queste. Il discorso. Per chiudere questa parte introduttiva, Aldo Mori chi era a cui avete intitolato il centro? Aldo Mori era un insegnante, un maestro, quindi un insegnante di scuola elementare a Fossalta di Portogruaro, ha passato una vita a Fossalta di Portogruaro e si caratterizzava proprio per la ricerca storica. Quindi lui personalmente, soprattutto insieme ai suoi piccoli allievi, andava in giro a raccogliere testimonianze e noi come centro una delle prime documentazioni che abbiamo sono le cassette di registrazione delle sue interviste e i lavori che gli alunni facevano insieme al maestro di trascrizione delle interviste e di illustrazione. Ecco. Quindi proprio il nome già dà anche il metodo. Esatto. Ecco. Voi principalmente portate avanti due attività che si intersecano nel territorio e con le scuole. C'è un concorso e poi ci sono le giornate, adesso le sviluppiamo. Cominciamo dal concorso per le scuole, tutti gli ordini, quindi dalla primaria fino alla secondaria superiore, con un tema diverso ogni anno. Sì, abbiamo dei temi ricorrenti nel concorso, che è proprio un tema relativo alla storia contemporanea, perché le scuole possono scegliere qualsiasi tematica che rientri in questo. Poi, legato proprio alle giornate della storia, di cui poi parleremo, noi inseriamo dei temi specifici. Ad esempio nel 2011 il tema era il risorgimento espresso secondo varie modalità. Modalità di ricerca, modalità interpretative, cioè di recitazione, drammatizzazione, video, poi anche espressioni artistiche, eccetera. Tutte queste vengono poi raccolte, esaminate appunto nel, da un comitato per la premiazione a questo concorso. Però i temi appunto nel 2011 abbiamo creato una sezione per il risorgimento, poi nel 2013 il tema è sempre la storia contemporanea, ma anche l'immigrazione. Poi ne parleremo appunto sulle 8 giornate della storia con tema relativo all'immigrazione, e adesso ci stiamo avviando con questo ultimo concorso puntando un po' sulle cause un po' della prima guerra mondiale e la prima guerra mondiale, mantenendo però sempre ferma la possibilità di approfondire qualsiasi tema e non soltanto quello specifico. C'è un tema specifico in un contesto generale. Questa sì. È una prima introduzione, facciamo anche la nostra prima pausa e poi ancora insieme. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ciascuno lo tiene per sé, una musica dentro che suona, un incontro che perso non è. C'è una vita che il cuore nasconde, pronunciare il mio nome non puoi, ma lo scoglio non ferma le onde, la corrente dispone di noi. Hai un uomo, una casa, un futuro, ma questo è il tuo sogno e nessuno lo sa. Uno sguardo che arriva e che parte, amore che viene che va, e stanotte le ombre si muovono piano e accendono il meglio che vuoi. È una notte che prende la mano al tuo cuore segreto che batte soltanto per noi. Se la vita domani riprende, ciascuno riprende la sua, la ragione col buio si arrende, trascinata dall'alta marea. Prendi ciò che il destino ti deve, non pensare al futuro che avrai. Dimmi quando sarà, dimmi dove, perché un giorno mi ritroverai. Tu dimentica il nome che avevi, dimentica il mondo, rimani su me, perché ciò che davvero volevi hai voluto, è per questo che c'è. E stanotte le dita si muovono piano e accendono il meglio che vuoi. È la notte che prende la mano al tuo cuore segreto che batte soltanto per noi. Domani torni al tuo equilibrio perfetto, hai già qualcuno che è migliore di me. Dentro ai fiori in questo letto lascia fuori la realtà. Qui c'è un cuore segreto che batte, è il tuo cuore segreto che batte, il mio cuore lo sa. Che avevi, dimentica il mondo, rimani su me, perché ciò che davvero volevi l'hai voluto, è per questo che c'è. e stanotte le dita si muovono piano e accendono il meglio che vuoi. È la notte che prende la mano al tuo cuore segreto che batte soltanto per noi. È il tuo cuore segreto che batte soltanto per noi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Seconda parte dal mondo della scuola, oggi con presidente e direttore del centro di documentazione Aldo Mori, che nella zona del Veneto orientale realizza da 7 anni, da quando il centro è stato aperto, diverse attività sulla ricerca storica coinvolgendo le scuole. E un modo per coinvolgere le scuole abbastanza tradizionale è il concorso, anche se poi le declinazioni possono essere diverse. Concorso 2011, poi 2013, ce n'è uno ogni anno praticamente, con un tema che abbiamo detto specifico e poi il contesto generale che è quello della storia contemporanea, quindi da dopo l'unità d'Italia ai giorni nostri. Concretamente il concorso in che cosa può consistere, dalle primarie alle medie alle superiori, Pierangelo? Allora, noi all'inizio dell'anno scolastico mandiamo una comunicazione a tutte le scuole, ai dirigenti e agli insegnanti, dicendo, pubblicizzando insomma il concorso, mandando il relativo bando che varia minimamente da anno a anno e mettendoci anche a disposizione delle scuole come ricercatori, come fornitori di bibliografie, come fornitori di materiale. E molto spesso questa è un'iniziativa che si è realizzata, cioè alcune scuole che già si stavano orientando su alcune tematiche, vedendole coincidenti con i temi che noi proponiamo, chiedono l'aiuto di nostri collaboratori, oppure ci chiedono documenti e noi andiamo nelle scuole e forniamo il materiale. Altre volte le scuole vengono semplicemente perché hanno visto il bando, quindi con loro percorsi del tutto autonomi, vedono che il lavoro fatto può essere adatto a un concorso, presentano il loro materiale. Allora, entro il 10 maggio della fine dell'anno scolastico devono presentare il materiale. Noi entro quella data abbiamo eletto una giuria che cambiamo tutti gli anni, e con anche il presidente della giuria, ce ne sono stati diversi nel corso di questi anni, a volte sandonatesi, a volte portoghesi. Non c'è differenza territoriale, quindi tutte le scuole del territorio di qualsiasi ordine e grado possono partecipare al concorso con pari dignità. Alcuni anni abbiamo visto che conveniva distinguere i premi per ordine di scuola, quindi il primo premio per le scuole elementari, primo per le medie e primo per le superiori. Altri anni, come questo ad esempio, abbiamo preferito un primo premio, un secondo, un terzo, unici. E abbiamo visto che a volte, esempio nella prima edizione, il primo premio è andato a una scuola elementare. Uno potrebbe pensare che la scuola superiore è privilegiata, invece no. A volte la ricerca che fanno le maestre è di una dignità incredibile, è di un rigore storico eccezionale. Ecco, per cui noi abbiamo avuto, diciamo, dalle 10 alle 15 istituti, che poi a volte significa per istituto anche tante classi, certo, oppure una sola classe, che partecipano. Abbiamo tentato anche la strada di coinvolgere il singolo allievo, Questo è stato più difficile, quindi su questo ci stiamo lavorando. Uh-huh. E poi è tutta documentazione che si aggiunge, chiaramente. Stiamo parlando di ricerca storica e quindi tutto ciò che si aggiunge è positivo. Ricordiamo che avete anche un sito www.centromori.org per chi vuole conoscervi meglio. Maria sta sfogliando due dei quaderni, quelli che avete pubblicato, che in qualche modo hanno già raccolto il materiale anche e soprattutto dei concorsi, no? Certo. Allora, proprio perché il materiale è diverso ed è anche a volte materiale di archivio, perché noi cerchiamo di sollecitare la ricerca d'archivio sulla storia locale per inserirla poi in un contesto più generale. Ma per dimostrare proprio le varie produzioni di queste scuole, cerchiamo di fare anche delle mostre, e in queste mostre viene esposto il materiale prodotto, che è un materiale cartaceo, però può anche essere un materiale informatico con dei video eccetera, e una forma appunto che è ricorrente è anche quella interpretativa, per cui cerchiamo di cogliere dei momenti in cui si esibiscono in contesti pubblici anche i ragazzi che hanno ricercato con l'aiuto dei propri docenti appunto degli elementi sconosciuti e nuovi. Nella forma ad esempio di una piccola rappresentazione teatrale? Può essere piccola, ma è anche a volte abbastanza, cioè diciamo lunga, nel senso che si esibiscono in una mattinata ad esempio alcune scuole e ognuno presenta a modo proprio un proprio testo basato proprio su una precedente ricerca. Il tutto poi appunto abbiamo cercato in questi due numeri di sintetizzare tutte le produzioni del San Donatese, del Porto Gruarese, perché le scuole sono delle fucine incredibili di creatività e di ricerca, quindi vanno ad integrare le conoscenze che a volte non vengono riportate nei testi classici. Sì. Ad esempio, sul tema dell'immigrazione abbiamo sollecitato gli insegnanti a far scrivere ai loro alunni una lettera fingendosi o un emigrato italiano di fine secolo dell'Ottocento, oppure un immigrato che è venuto nei nostri paesi, oppure un alunno che scrive al suo compagno di banco che viene da altri. Hanno prodotto centinaia di lettere, di cui una selezione noi l'abbiamo pubblicata. Beh, del resto poi la provenienza di tantissimi alunni anche da altri paesi credo che abbia aiutato, insomma è un tema più che quotidiano questo. Sì, però vorremmo far capire che c'è stato proprio sia questa lettera di emigrati, contestualizzando le lettere in un momento, appunto perché le lettere, contestualizzandoli in un periodo storico, anche dei giovani hanno cercato, giovani italiani, hanno cercato di immedesimarsi in queste situazioni, di contestualizzare però anche il momento in cui scrivevano, e quindi non è una semplice lettera di carattere, diciamo, letterario, ma proprio noi ci teniamo anche a un contesto storico, ecco, qui esprimendo sì gli stati d'animo, le problematiche che possono emergere, ma anche le conoscenze di carattere temporale, cronologico, contestuale. E anche dirette magari di esperienze di parenti, di nonni che hanno avuto l'emigrazione vissuta davvero. Ultima pausa, ancora insieme con gli amici del Centro Mori, tra poco. Dal mondo della scuola. Say understand that it is hard to tell you that I've given all I have to be. And I can understand your feelings, but then everybody has a life to live. Once in a lifetime, you have seen what I've seen. Swing for sure. Once in my lifetime, I'm never in between. Some things you just can't ignore. Now reach out, you can touch me. I'll let you have my life to share. Years or days, such a puzzling grace. Understand that it is hard to tell you that I've given all I have to give. And I can understand your feelings, but then everybody has a life to live. Once in a lifetime, you have seen what I've seen. Swim for sure. Once in my lifetime, I'm never in between. Some things you just can't ignore. Once in a lifetime, you have seen what I've seen. You will always swim for sure. Once in my lifetime. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, integrata con la storia. Il titolo che gli amici del Centro Documentazione Aldo Mori hanno dato ai loro fascicoli è significativo: scuola e storia, storie nella storia, tutte le storie, le vicende che i ragazzi dalle elementari alle superiori sono riusciti a raccogliere, ricercando appunto con varie metodologie nel corso degli anni, sul risorgimento, sull'immigrazione, sulla grande guerra, che è tema di questa edizione. C'è il concorso di cui abbiamo parlato, ci sono anche da alcuni anni, Maria Trivellato, che è presidente del Centro Aldo Mori, ci sono le giornate sandonatesi. Possiamo definirle un piccolo festival, o è una terminologia forse esagerata? Ma direi che noi siamo stati un po', ecco, tentati di mettere la parola festival, poi consapevoli del fatto forse che è meglio scrivere, cioè meglio dire giornate della storia. Diciamo che però la varietà porta proprio a dire che è un piccolo festival, in quanto chi partecipa sono variegate associazioni, persone, proprio interpretando ad esempio anche da un punto di vista lirico canoro, perché noi in queste giornate della storia facciamo coinvolgere queste rappresentazioni teatrali, convegni, persone che provengono proprio a livello nazionale da vari ambiti storici ed istituzionali, poi mostre, e le mostre coinvolgendo anche in questo collezionisti, filatelici, il nostro obiettivo è sempre la scuola, quindi anche le scuole, e poi però cerchiamo anche di renderli loro protagonisti. La diversità è proprio in questo, che accanto a persone che stanno che interpretano da anni i testi e studiano, sono studiosi, mettiamo anche persone che possono sembrare non adeguate perché piccole, in effetti abbiamo visto invece che danno dei grandi risultati, grandi contributi. Le giornate della storia San Donatesi sono in primavera, indicativamente già avete fatto appunto le edizioni dedicate al risorgimento, all'unità d'Italia e all'emigrazione. Sì. Le prossime quando sono? Dunque, allora, noi abbiamo un appuntamento fra poco, ovvero il 28 marzo, con il professor Ezio Benedetti, sulla questione dei Balcani ieri e oggi, dicendo che un po' stiamo seguendo la tradizione, perché prima, sempre in collaborazione con Porto Gruarese, sono venute le scolaresche eccetera, abbiamo fatto la Libia ieri e oggi, e vorrei solo fare un cenno alla precedente edizione delle giornate della storia sull'emigrazione, cercando di orientare sia la conoscenza dell'emigrazione nei paesi dell'America, nei paesi dell'Europa, con testimonianze eccetera, ma ci siamo orientati un po' verso la Libia e verso l'Africa orientale, in quanto è un'esperienza vissuta da persone che tuttora sono presenti, che poi abbiamo anche contattato, ovvero quelle persone che nel 70 sono rientrate dalla Libia, ma negli anni, negli anni 38 e 39, con l'emigrazione dei 20.000 di Italo Balbo, si erano recati in terra d'Africa. Diciamo che adesso questo convegno che facciamo, i Balcani ieri e oggi, come la Libia ieri e oggi, ha il taglio della storia e della contemporaneità. Quindi il primo appuntamento è il 28 marzo, con i Balcani ieri e oggi, invitando appunto gli studenti, e per far vedere come il problema del conflitto è partito da quel territorio, però la situazione dei Balcani è sempre una situazione viva e problematica, per cui cerchiamo di agganciarci anche a questo. Poi c'è l'appuntamento con il periodo di maggio, in cui faremo la Belle Époque, che si sempre in collaborazione con il comune, con la biblioteca, con il comune, con le associazioni culturali e con le scuole. E questa Belle Époque si tradurrà con espressioni diciamo artistiche, in quanto faremo una mostra che coinvolge sia le associazioni d'arte un po' del territorio, ma soprattutto le scuole. E quindi questa mostra, che avrà una durata di 15 giorni, però abbiamo la serata del 10 maggio, in cui le scuole, ognuno secondo le varie modalità, recita, letture, video, tutte le forme espressive, cioè intratterrà sulla piazza la popolazione San Donà, però sempre con la collaborazione, certo, però fisicamente il luogo è San Donà di Piave, ma sempre in stretta collaborazione col Porto Gruarese. L'ultimo minuto lo dedichiamo, Pierangelo, ad altre iniziative editoriali, attività prossime, ancora, come si dice, in animo o nel pensiero. Allora, tutti gli anni noi collaboriamo in particolare con le scuole e con le amministrazioni comunali che ci sostengono, per ricordare in maniera significativa le due celebrazioni che ha voluto il nostro paese sull'Olocausto e sulle foibe, l'esodo degli istriani, il 27 gennaio e il 10 febbraio. Esatto, quindi noi attorno a quei periodi sempre siamo presenti nelle scuole. Alcuni anni siamo riusciti anche a celebrare il giorno del ricordo delle vittime del terrorismo in alcune scuole del San Donatese, che è a maggio, e del Porto Gruarese. Naturalmente partecipiamo alle manifestazioni del 25 aprile, quindi la liberazione, e abbiamo il prossimo anno, sarà concentrato moltissimo sulla Grande Guerra. Quest'anno come diceva Maria, sono un po' i prodromi. Preparatorio, certo. Il preparatorio, poi c'è della il centenario guerra. Nel 15. E poi c'è il centenario. Quindi lì il prossimo anno sarà specificamente dedicato sia come concorso, sia come giornate sondonatesi, sia come pubblicazione. Il nostro terzo quaderno, insomma, sarà dedicato alla grande guerra. Certo, sappiamo anche in quella guerra quanto hanno sofferto poi tutte le comunità della sponda del Piave da una parte, esatto, e dall'altra. Ricordo in questo poi quello che fece il vescovo Longhin, il vescovo di Treviso, negli anni successivi. Centromori.org per ulteriori informazioni. Grazie ai nostri ospiti Maria Trevellato e Pierangelo Piasentier del Centro Documentazione Aldo Mori, e buon lavoro perché ce n'è tanto. Grazie anche a voi. Grazie, grazie. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.